ci sono domande che non han subito una risposta. Ti entrano dentro nella mente e all'improvviso che affiorano, confondono così inspiegabilmente, così. Ci sono giorni che vorresti essere in un altro posto, vedere i campi sterminati, stare da solo a nasconderti, riflettere così improvvisamente, così si apre la mente, le spighe di grano al soffio del vento ondeggiano piano, così non le sento, i chicchi di grano si stanno disperdendo tra desideri che sto appena scorgendo. Le spighe non puoi piegarle di più, timori e conflitti non li hai solo tu, le spighe di grano si cullano al vento. Oh, oh, oh. Ci sono domande che ti ritornano alla memoria, entrano ancora nella mente ed ogni tanto riaffiorano, confondono così improvvisamente, così si apre la mente, le spighe di grano al soffio del vento stanno ondeggiando. E forse le sento, i chicchi di grano si stanno disperdendo tra desideri che sto ancora scorgendo. Le spighe non puoi spezzarle perché i timori fluttuano al variare di te, la voglia di essere come vorrai può far cessare i conflitti che hai, che sai. Al soffio del vento stanno ondeggiando e adesso le sento, i chicchi di grano si stanno disperdendo già tra i desideri che sto attraversando. Le spighe di grano non hanno un equilibrio, però non sanno dove andare, perciò si cullano al vento, e ancora una risposta non ho mai esiste, lo so.